Canto terzo della Divina Commedia, il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto terzo. Avvegna che la subitana fuga dispergesse color per la campagna, rivolti al monte, ove ragionne fruga, io mi ristrinsi alla fida compagna. E come sarei io senza lui corso? Chi m'avria tratto su per la montagna? El mi parea da se stesso rimorso. Oh, dignitosa coscienza e netta, come te picciol fallo, amaro morso! Quando gli piedi suoi lasciar la fretta che l'onestade ad ogni atto dismaga, la mente mia, che prima era ristretta, l'ontento l'allargò sì come vaga, e diedi il viso mio incontro al poggio, che verso il ciel più alto si dislaga. Lo sol, che dietro fiammeggiava roggio, rotto m'era dinanzi alla figura, c'aveva in me de suoi raggi l'appoggio. Io mi volsi da lato con paura d'essere abbandonato, quand'io vidi solo dinanzi a me la terra oscura. E il mio conforto, perché pur di fidi, a dirmi cominciò tutto rivolto, non credi tu me teco e ch'io ti guidi? Vespere già colà, dove sepolto è il corpo dentro al quale io facea ombra, Napoli là, e da Brendisio è tolto. Omai, se innanzi a me nulla s'adombra, non ti maravigliar più che le cieli che l'uno all'altro raggio non ingombra. A sofferir tormenti e caldi e gieli, simili corpi la virtù dispone, che come fa non vuol ch'a noi si sveli. Matto è chi spera che nostra ragione possa trascorrer la finita via che tiene una sustanzia in tre persone. State contenti, umana gente, alquia, che se potuto aveste veder tutto, mestier non era partorir Maria. I disiar vedeste senza frutto tai che sarebbe lor disio quetato che eternalmente è dato lor per lutto. Io dico d'Aristotele e di Plato e di molti altri, e qui chinò la fronte e più non disse e rimase turbato. Noi divenimmo intanto a piè del monte. Quivi trovammo la roccia sì erta che indarno vi sarien le gambe pronte. Tra l'erice turbia, la più diserta, la più romita via è una scala, verso di quella agevole ed aperta. Or, chissà da qual man la costa cala, disse il maestro mio fermando il passo, sì che possa salir chi va senz'ala. E mentre che tenendo il viso basso esaminava del cammin la mente ed io mirava suso intorno al sasso, da man sinistra m'apparì una gente d'anime che movieno i piè ver noi, e non pareva si venivan lente. Leva, dissi al maestro, gli occhi tuoi, ecco di qua chi ne darà consiglio, se tu da te medesmo averno il puoi. Guardommi allora e con libero piglio rispose: andiamo in là che vengo un piano, e tu ferma la speme, dolce figlio. Ancora era quel popolo di lontano, i dico dopo i nostri mille passi quanto un buon gittator trarria con mano, quando si strinser tutti ai duri massi dell'alta ripa e stetter fermi e stretti come a guardar chi va dubbiando stassi. O ben finiti, O già spiriti eletti, Virgilio incominciò, per quella pace ch'io credo che per voi tutti s'aspetti, ditene dove la montagna giace, sì che possibile sia l'andare in suso, che il perder tempo a chi più sa più spiace. Come le pecorelle escon dal chiuso ad una, a due, a tre, e l'altre stanno timidette atterrando l'occhio e il muso, e ciò che fa la prima l'altre fanno addossandosi a lei s'ella s'arresta, semplici e quete, e l'on perché non sanno. Sì, vid'io muover a venir la testa di quella mandria fortunata allotta, pudica in faccia e nell'andare onesta. Come color dinanzi vider rotta la luce in terra nel mio destro canto, sì che l'ombra era da me alla grotta, ristaro e traster sé indietro alquanto, e tutti gli altri che venirono appresso, non sappiendo il perché, fero altrettanto. Senza vostra dimanda io vi confesso che questo è corpo man che voi vedete, perché il lume del sole in terra è fesso. Non vi maravigliate, ma credete che non senza virtù che dal ciel vegna cerchi di soperchiar questa parete. Così il maestro. E quella gente degna, tornate, disse, entrate innanzi dunque, coi dossi delle man facendo insegna. Ed un di loro incominciò, chiunque tu sei, così andando volgi il viso, pon mente se di là mi vedesti unque. Io mi volsi ver lui e guardai il fiso. Biondo era e bello e di gentile aspetto, ma l'un de cigli un colpo avea diviso. Quando mi fui umilmente disdetto d'averlo visto mai, el disse, or vedi, e mostrommi una piaga a sommo il petto. Poi, sorridendo, disse, io son Manfredi, nipote di Costanza imperatrice, ond'io ti prego che quando tu riedi, vadi a mia bella figlia genitrice dell'onor di Sicilia e d'Aragona, e dichi a lei il ver, s'altro si dice. Poscia che ebbi rotta la persona di due punte mortali, io mi rendei piangendo a quei che volentier perdona. Orribil furon li peccati miei, ma la bontà infinita ha sì gran braccia che prende ciò che si rivolve a lei. Se il pastor di Cosenza, ch'a la caccia di me fu messo per clemente, allora, avesse in Dio ben letta questa faccia, l'ossa del corpo mio sarien ancora in co del ponte presso a Benevento, sotto la guardia della grave mora. Or le bagna la pioggia e muove il vento di fuor del regno, quasi lungo il verde, ove le trasmutò a lume spento. Per lor maledizion sì non si perde che non possa tornar l'eterno amore, mentre che la speranza a fior del verde. Verè che quale in contumacia muore di santa chiesa, ancor che al fin si penta, starli convien da questa ripa in fuore per ogni tempo che gli è stato 30, in sua presunzion, se tal decreto più corto per buon preghi non diventa. Vedi oramai se tu mi puoi far lieto, rivelando la mia buona costanza, come mai visto ed anco questo divieto che qui per quei di là molto s'avanza. Fine del canto terzo.